Euroreportage. Catalunya, 29esimo paese d'Europa, di Sergio Nava. Questo che adesso è in gioco non è la Catalogna del 2020, è la Catalogna del 2050. Ma è vero che per avere la possibilità di una Catalogna realmente positiva nel 2050, oggi noi catalani, da qui al 2020, dobbiamo fare dei progressi importanti dal punto di vista politico e di punto di vista di potere politico e di sovranità come paese, di una situazione politica diversa di quella che ci hanno imposto adesso. Così, nelle parole a Radio 24 di Jordi Pujol, storico presidente della Generalitat Catalana dall'80 al 2003, il cammino che attende nei prossimi anni la Catalunya, attualmente una regione autonoma della Spagna. Regione percorsa da forti venti indipendentisti, più che un cammino una strettoia, come Pujol la definisce nel suo ultimo libro. Alle spalle il rischio di residualità e marginalità nel contesto europeo. Oltre alla strettoia, invece, un futuro migliore anche se con tanti punti di domanda. In questo reportage da Barcellona vi porteremo al nocciolo del problema. Una indipendenza politica catalana è possibile? Può la Catalunya aspirare a diventare il 29esimo paese europeo? Ma andiamo con ordine. La giornalista Claudia Cucchiarato, coautrice dell'ebook La questione catalana, edito da GoWare, ci introduce al tema che affronteremo in questo reportage. La questione catalana in realtà è risorta l'11 settembre dell'anno scorso. C'è stata una grandissima manifestazione a Barcellona, si parla di più di 1,5 milioni di persone in strada, che chiedevano la Catalunya come un nuovo Stato in Europa. Lì è sorta la questione catalana come la conosciamo noi. In realtà la questione catalana cos'è? È un movimento di persone che a quanto pare è già maggioritario, secondo tutti i sondaggi e secondo anche le ultime votazioni che ci sono state al governo per il nuovo Parlamento della Catalunya, affinché la Catalunya si separi dalla Spagna. Questo è un sentimento soprattutto che viene da ragioni storiche. L'11 settembre del 1714 Barcellona è stata presa, sconfitta dalle truppe borboniche, i francesi e gli spagnoli, e ha perso la propria autonomia, quelle che loro chiamavano strutture di Stato. Queste sono un po' le ragioni storiche, però in realtà quella che si sta rivendicando negli ultimi 2 anni soprattutto è un'indipendenza che ha delle ragioni anche soprattutto economiche. Non è un esperimento del tutto nuovo, però sì che è un esperimento abbastanza, diciamo, originale, perché crea moltissimi problemi e ha anche molte voci contrarie, soprattutto nel senso lo stesso paese in cui si inserisce la Catalunya, la Spagna, è il primo a non volere questa indipendenza. Sarà possibile? Io non credo. Vedo che i problemi sono sempre di più, invece di diminuire aumentano. Ci sono dei problemi strutturali, dei problemi soprattutto politici, ma anche dei problemi economici molto gravi, e nessun politico ha potuto o ha voluto dare mai una risposta chiara su che cosa era quello che si stava offrendo ai cittadini, cioè cosa sarebbe stata la Catalunya indipendente, perché nemmeno loro lo sanno. Il mercato della Buqueria, dove ci troviamo ora, ricorderà ai più incalliti fan di Pepe Carvalho alcune delle scorribande gastronomiche del personaggio letterario inventato da Montalbán. E qui, in mezzo ai colori, agli odori di questo luogo caratteristico della storia barcellonese, sempre più, ahi noi, anche un po' troppo turistico, ripartiamo per andare a sentire assieme le interviste che abbiamo realizzato ai principali partiti catalani. Cerchiamo, insomma, di capire i pro e i contro dei punti di vista sull'indipendenza. Indipendenza sì o indipendenza no? Sentiamo le voci dei protagonisti politici. La indipendenza, conseguir ser un Estado. Giuseppe Rull, segretario organizzativo di Convergència, il partito di maggioranza catalano, è chiaro: l'obiettivo è l'indipendenza, con un piano preciso, un referendum popolare nel 2014 d'accordo con la Spagna per far decidere ai cittadini se optare o no per l'indipendenza. Se questo non sarà possibile, faremo una legge catalana per lanciare il referendum, dice, e se anche questa strada non funzionerà, convocheremo nuove elezioni autonomiche con chiara vocazione plebiscitaria per eleggere un Parlamento che vari una nuova Costituzione catalana. Tra il referendum e la nascita del nuovo Stato dovrebbero passare 1 o 2 anni. L'Europa è la stella polare per Rull. Il nostro obiettivo è entrare come Catalunya nell'Unione Europea. Non possiamo restare esclusi dal mercato unico, né l'Europa può dare le spalle a un processo democratico, aggiunge Rull, prima di fare un'ultima estrema apertura. Se Madrid concederà maggiore autonomia fiscale a Barcellona, beh, allora se ne potrebbe riparlare, ma sempre per referendum. Io non tengo duda di che... Chi invece ha rotto tutti i ponti con Madrid da sempre è Esquerra Republicana, partito di sinistra votato all'indipendenza catalana. Attualmente fornisce appoggio esterno a Convergence Unió per consentirgli di governare nella regione sulla base di un patto chiaro, sì comune all'indipendenza. Cesc Iglesias è il vice segretario di Esquerra. Non ho dubbi che convocheremo un referendum per l'indipendenza, dice. Speriamo che il comportamento dello Stato spagnolo sia democratico e rispettoso della nostra volontà. La domanda dovrà essere chiara sul modello scozzese. Vuole che la Catalunya sia uno Stato indipendente? Iglesias chiude ogni possibilità di altri accordi con Madrid. Troppi patti traditi da parte della Spagna in passato. E ricorre a una metafora: Spagna e Catalunya come marito e moglie, una coppia in cui il marito spagnolo maltratta e picchia la moglie catalana, tagliandole i viveri. La moglie, sostiene Iglesias, ha tutto il diritto di lasciare il marito, entro il 2015, precisa. E se questo marito non capisce che è finita, occorrerà rivolgersi all'Europa. Europa come arbitro della questione, si augura Iglesias, più che esserne davvero certo. Vamos a intentar que Europa sea el árbitro. Ens vam retrovar una nit d'estiu. Aquellos que quieren la separación de Cataluña del resto de España. La metafora marito spagnolo, moglie catalana, catalana viene ripresa da Jordi Cañas, deputato e portavoce parlamentario di Ciutadans nel Parlamento catalano, ma stavolta a parti invertite. È la moglie catalana che scappa di casa con l'amante, lasciando il marito spagnolo cornuto, mazziato e con i debiti da pagare. Ciutadans è un partito abbastanza recente e difende l'unione Catalunya-Spagna. Chi chiede la secessione ci deve spiegare i motivi, ci dice. Noi siamo il partito del sì. In questo momento storico non si capisce la necessità di innalzare frontiere dentro la Spagna e dentro l'Europa. Cañas ricorda che una secessione in Spagna è anticostituzionale e il solo referendum, se illegale, porterebbe alla sospensione dell'autonomia. Ciutadans si dice tuttavia a favore di una riforma del modello di autonomia spagnolo, cominciando con l'istituzione di un senato federale. Il diritto all'autodeterminazione a cui si appellano gli indipendentisti si riferisce a situazioni coloniali, a territori che non hanno alcuna forma di rappresentanza nel seno dello Stato, contesta Santi Rodríguez, deputato e vice portavoce del Partito Popolare Catalano. La conclusione del ragionamento appare un po' estrema e forse impraticabile. Occorre che tutti gli spagnoli abbiano il diritto di decidere sull'eventuale secessione catalana, poiché ci troveremmo di fronte a una modifica costituzionale, dice. Infine la minaccia: se la Catalunya dovesse andare alla secessione unilateralmente, non sarà solo la Spagna a porre il veto sull'ingresso in Europa, lo farebbero anche molti altri paesi. Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entra als annals de la història. L'Europa, come avete appena ascoltato, entra continuamente nella discussione su indipendenza. A Bruxelles il disagio è profondo. Ferran Tarradellas, direttore della rappresentanza della Commissione a Barcellona, spiega con una metafora la difficile posizione europea. La Commissione deve avere una posizione di rispetto per questo dibattito importante. Il rispetto in un ambito che è fuori della competenza dell'Unione Europea significa neutralità. Allora quello che noi vogliamo fare è restare più neutrale in un dibattito che non può essere il nostro. Si può fare una metafora al rispetto? L'Unione Europea è come un palazzo di appartamenti e la Commissione Europea è l'amministrazione del palazzo, ma quello che passa dalla porta dell'appartamento indietro dell'appartamento, l'amministratore della finca, l'amministratore del palazzo non deve entrare. Ma se arriva un giorno che della discussione dentro il palazzo il bambino vuole partire dalla famiglia e decide di aprire una porta e costruire un muro nell'appartamento, allora l'amministratore della finca deve dire qualche cosa. Per noi quello che è importante è che il dibattito sull'interiore dell'appartamento, sull'interiore dell'Spagna, è fatto senza interferenza della Commissione Europea. Ma dopo, se si arriva a una situazione che ha un impatto sull'interno dell'Unione Europea, allora certamente la Commissione dirà qualche cosa. Mettiamo ora un punto fermo. Una cosa è certa: negli ultimi anni il sentimento indipendentista è cresciuto esponenzialmente tra la popolazione. A pranzo incontro amici di vecchia data, Maria, Serni e Ruger. Sono tutti trentenni. Per anni la questione della secessione non li ha coinvolti. Ora però hanno le idee chiare. Io credo che ora sia una questione catalana, perché la società catalana sa da una credo conta... che esista una questione catalana, dice Ruger, perché la società catalana si è resa conto che ha bisogno di uno Stato proprio per superare i suoi problemi e le sue limitazioni, e si è resa conto che non tiene uno Stato a favore, ma uno Stato che rema contro. Questo è il motivo per cui la maggioranza della società, tradizionalmente conservatrice, ora guarda l'indipendenza. Io sono dell'opinione. Per Serni, la Catalunya deve poter decidere liberamente il suo futuro, votando per referendum. Io voglio un referendum, dice. Io personalmente mi stick a favore dell'indipendenza. E Maria è chiara: sono favorevole all'indipendenza, la Spagna non rispetta la Catalunya. Questa mancanza di rispetto mi infastidisce. Spagna come nazione già non rispetta Catalunya. Jordi Pujol, il padre del nazionalismo catalano, spiega così i cambiamenti che stanno trasformando e rivoluzionando il suo paese. A lui dunque l'ultima parola. È cambiato tutto, la Spagna ha cambiato in un senso negativo. La Spagna è entrata da una situazione di dopo 20, 30 anni quasi di un progresso importante, è entrata in crisi. Ma la Catalogna e soprattutto la relazione Catalogna-Spagna ha peggiorato molto, molto. In che senso? Nel senso di che c'è stata una politica di diminuzione costante della nostra autonomia, totalmente diversa di quella che noi volevamo aiutare e che durante 20, 25 anni, 30 anni aveva dato dei risultati positivi. E per questo che allora noi, la Catalogna, ha cambiato, ha modificato il suo avviso e ha tentato di riformare lo Statuto d'Autonomia per evitare, no? Per evitare tutte queste ingerenze negative dello Stato. Questo ha fallito e per questo che una parte importante che non era indipendentista è diventata indipendentista. Lei personalmente è diventato indipendente? Io personalmente, sì. Cosa ha significato per lei? Un trauma. Un trauma, sì. In realtà io qualche volta dico che non può dire che sia esattamente indipendentista, ma so che se continua questa politica dello Stato spagnolo verso la Catalogna, noi come lingua, come cultura, come nazione, come economia, andremo molto molto indietro. Restare come siamo adesso e in 40, 50, 60 anni è la nostra residualizzazione e la residualizzazione è la porta della disparizione. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.